It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si capisce più un accidente, K e Drago rasentano la malattia mentale. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Cioè, io, come percettore del mondo, creo il mondo nel momento in cui lo percepisco, capito, Drago? Sì. E il mondo si dispiega davanti ai miei occhi creandosi in quel momento preciso. E poi? E poi si disfa mentre distolgo gli occhi. Bella, no, come immagine? Sì, bella, però tutto quello che succede lontano da te... Non c'è. Come non c'è? Non c'è, Drago, la materia non esiste. Lo diceva George Berkeley. Chi? Le nozioni di primo di classe. George Berkeley, 1685-1753, filosofo irlandese, scrisse: dal momento che tutte le qualità degli oggetti esistono in quanto idee percepite con i sensi, sarebbe contraddittorio che esse poggiassero su una sostanza inerte, la materia, non in grado di percepire. La materia, pertanto, non esiste. Existiert nicht. Vabbè, senti, K, forse questa teoria andava bene nel 700, ma adesso se uno ti telefona da New York, la sua voce arriva da un posto che tu non vedi, ma che esiste anche se tu non lo vedi, e quindi diciamo che i mezzi di comunicazione smentiscono nettamente la tua teoria. Beh, non necessariamente New York, perché anche se ti chiama da Como non lo vedi, anche se ti chiama da Biandrate. Certo. Comunque quindi... questa non è la mia teoria, Drago, è la teoria di Berkeley. Quindi... Vabbè, Berkeley. Mica mi piaceranno quelli lì, Ma chi? Chi? Service, no? È un gruppo inglese. No, Paul, in sbattimento. Stavamo parlando di George Berkeley, filosofo irlandese, geniale, precursore del neoegoismo. Berkeley. Ah, no, ma io pensavo che voi parlaste di cose serie, cioè di musica. Perché questo Berkeley Jazz Service era un gruppo io, tipo i Pooh. Mica tanto di più, Però essendo inglesi sembrano molto più bravi dei Pooh. Ma scusa, ma è musica anni 70, Pollo? Sì, musica anni 70, però è brutta. Ma musica anni 70 brutta. È brutta, è mielosa. No, fa schifo. Ho capito. È quasi grottesca ormai sentire adesso. Tu pensa che adesso il cantante ha una testa di capelli bianchi che sembra uno vestito da carnevale. Vabbè, poverino, anche lui. Vabbè, ma la musica fa schifo, Cioè, tipo? No, tipo tutta coi violini sdolcinati, no? Tipo? Poi c'è il piano, poi la tastiera e poi c'è questo bamba qua che canta con i capelli bianchi. Ma è bruttissimo, You are the cattle, and we are the keepers. Picciotte e piccioni, ho notato che molte di voi stanno desertando gli inconci del sindacato. E questa cosa mi addolora molto. Io, che sono un pace per molte di voi, un pace vero e proprio, un pace canale. Un pace nel vero senso del termine. Io, che per il vostro bene vi ho portati a spasso per il mondo, a scroccare dove regna l'abbondanza. Io, che ho sacrificato tutta la mia vita per fondare un sindacato dei piccioni pensionati. Intendo pensionati per la vita, per sempre, da sempre e per sempre. Io non posso vedere che molte di voi dimenticano le loro origini, dimenticano le radici, e questo non va bene. Questo mi dispiace. dovete appoggiare con tutte le forze il sindacato, perché il sindacato vi toglie dalle preoccupazioni. Il sindacato vi rende liberi. E quindi viva il sindacato dei piccioni pensionati, viva l'Italia e viva la libertà! Chicken seed crap. Dissuasori elettrici, ecco quello che ci va contro i piccioni. I dissuasori elettrici a binario. Cos'è un dissuasore elettrico a binario, capo? Il dissuasore elettrico a binario è composto da due conduttori, ognuno dei quali è costituito da 7 fili intrecciati in acciaio inox. Target, tutti i volatili molesti. Gabbiani, storni, piccioni, passeri. Facile da usare. Dopo aver fissato il binario alla centralina di alimentazione solare, il sistema è pronto a intervenire come dissuasore. Beh, vabbè, capa, ma qui quanti metri di dissuasori elettrici a binario dovremmo stendere? Scusa, questo labirinto è grande quanto il Louvre. Hai queste ragione. Cose sono tipo 100 Sai metri. Sai cosa? Potremmo provare i... Dissuasori a spilli, costruiti interamente in acciaio inossidabile, garantiti per 10 anni. Sono estremamente resistenti alle intemperie ed hanno ampie garanzie di durata, affidabilità ed efficacia. Target, piccioni e gabbiani. Dove? Per proteggere davanzali, cornicioni, grondaie e capitelli. I dissuasori a spilli sono caldeggiati dagli enti protezionistici in quanto totalmente innocui. Proprio per quello mi sa che non vanno bene, perché sai, gli enti protezionistici tengono alla salute. Io, no, guarda, qui poi dovremmo cospargere il pavimento della fabbrica di spilli, quindi... Cioè, come i fakiri, drago, infatti. Pensa che bello, imparare a resistere al dolore. Vabbè, ma non hai altri tutti metodi, insieme. No? Ci sono altri modi, sai, qualcosa di più moderno. Dissuasore elettrico a binario. No, aspetta, quello l'hai già detto. Allora... Dissuasore chimico, repellente in pasta, composto di materiali plastici sintetici non tossici, rende instabile ed insicuro l'appoggio delle zampe. I volatili evitano di sostare sulle superfici trattate per almeno un anno. Target, piccioni. Il composto conserva la sua forma fisica entro un ampio raggio di temperature. Non gela e non cola. Non è solubile in acqua e non conduce elettricità. Dissuasore chimico è consigliato da Ali il Chimico. Hi, I am Ali il Chimico. And you are listening to La Fabbrica di Polli. No, non va bene, funziona. Anche dissuasore chimico, no. No, beh. Ma hai ragione, Drago. Nella lotta ai piccioni siamo ancora all'età della pietra. Sì. Questi metodi non vanno bene per un'invasione di questo tipo. Non possiamo mica far fronte a questa massa di piccioni con la pappetta schifosa che rende appiccicose le zampette. Eh no, dai. Siamo sempre lì, poi. In teoria dovremmo spargere la pappetta dappertutto sul pavimento della fabbrica. No, guarda, l'unica sarebbe sparare a vista. Ma dai, con quale arma? Come dai? Con quale arma, Drago? Cosa? Con un... AK-47, costo $3,000, progettato da Mikhail Kalashnikov, da cui prende il nome. Il Kalashnikov, appunto, la K-47 Kalashnikov è preciso e sufficientemente pesante da sparare bene a raffica senza troppe vibrazioni. Con 3 sventagliate ne fai fuori 300. Vabbè, ma i piccioni sono decine di migliaia. Vabbè, allora fai il calcolo, ci vanno centinaia di raffiche. Sì, col rischio di far fuori Polli e anche me. Beh, ma anche tu devi avere una K-47 Kalashnikov da $3,000. Vabbè, sì, così magari poi ci spariamo a vicenda. Ma no, basta, se stai attento alla sicura. Sei impazzito! E allora becca questo! Cosa succederà adesso? Chi riuscirà a togliere i Kalashnikov dalle mani di Kappa e Drago? Non insistete, non lo saprete mai a meno che non vi sintonizziate domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo caucasico allestimento de... La Fabbrica di Polli. La Fabbrica di Polli produce, non chiude. Perché nel Caucaso usano il Kalashnikov. Matrimonio, sparano il Kalashnikov.